Europa 24. E buon pomeriggio da Anna Migliorati. Queste sono senza dubbio tragedie che riguardano tutta l'Unione Europea. Così il portavoce del Presidente della Commissione, José Manuel Barroso, ha parlato del naufragio di Lampedusa. Lo stesso Barroso ha assicurato che andrà nei prossimi giorni sull'isola. Una catastrofe per il Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Insomma, dopo i fatti di ieri, il tema dell'assenza europea dal palcoscenico delle politiche migratorie è tornato alla ribalta. Lunedì, la sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo si aprirà con un minuto di silenzio per commemorare le vittime, come chiesto dai vicepresidenti del Parlamento Europeo italiani Roberta Angelilli e Gianni Pittella. Salvatore Iacolino, europarlamentare PDL e vicepresidente della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni, e ammette le agenzie europee Eurosur e Frontex non funzionano. Sentiamolo al microfono di Sergio Nava. Non è che non funzionano. Funzionano non come dovrebbero, perché non c'è un raccordo operativo con le autorità di governo degli Stati membri. Veda, giorno 7 e 8 nell'agenda dei lavori fitta del Consiglio europeo c'è il piano operativo che riguarda l'asilo e la migrazione con riferimento alla Grecia. Non c'è nulla per l'Italia. Allora il ministro degli interni dovrà fare la sua parte, mi riferisco al ministro degli interni italiano, dovrà fare la sua parte la Commissione europea, e noi mercoledì a Strasburgo, su mia richiesta, nella discussione che abbiamo provocato, vorremmo che ci fosse maggiore solidarietà, maggiore responsabilità e misure concrete in favore dei comuni sovraesposti. Ciò che è accaduto a Lampedusa, ma anche nella costa siracusana, merita una risposta più concreta e più seria, ma da parte di tutti quanti, a cominciare l'Unione Europea, ma non con un concorso più responsabile e più autorevole da parte dell'Italia. A parlare in plenaria sarà lunedì Sonia Alfano, europarlamentare dell'Italia dei Valori e membro della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni, e anticipa: denuncerò le responsabilità dell'Europa. Ognuno di noi ha sulla coscienza la responsabilità di questi morti. Le istituzioni europee hanno la loro responsabilità, perché il Consiglio in questo caso ha bacchettato, però poi quando si portano delle risoluzioni un po' più dure sul tavolo, ovviamente si cerca di coprire, si copre una vicenda tra Stati membri. La Commissione spesso cerca di mettere una pezza, nel senso che comunque presenta delle proposte legislative che non sono all'altezza e soprattutto non sono assolutamente ambiziose. A Bruxelles si dibatte anche del futuro dell'Unione. L'Europa così non funziona, dicono i federalisti del gruppo Spinelli, che hanno presentato la loro bozza di Costituzione. Una nuova legge fondamentale in senso federale. Un'Europa federale più democratica, più influente per il mondo di domani è il sogno anti-euroscettico del gruppo Spinelli, sostenuto da 110 parlamentari. Dal 2010 sta dando battaglia affinché l'Europa si lasci alle spalle l'idea degli stati-nazione e punti ad un'Unione che sia realmente federale, e dunque una Commissione europea che diventi vero governo, con un presidente eletto direttamente, una banca centrale con poteri analoghi a quelli della Fed americana, una politica di sicurezza e difesa comune, un tesoro europeo e l'eliminazione della regola dell'unanimità. La proposta è stata presentata ieri a Bruxelles da Guy Verhofstadt, fondatore del gruppo Spinelli, ex premier belga e leader del gruppo liberal democratico al Parlamento europeo. L'Europa non funziona più, dice Verhofstadt, perché abbiamo un cattivo metodo nel gestire la crisi. Una crisi gestita da 28 capi di Stato e di governo non va bene, è un processo troppo lungo. O decidiamo all'unanimità, dice ancora, o la cosa non funziona e le riforme sono troppo modeste o arrivano troppo tardi. È per questo, spiega il leader dei liberal democratici, che stiamo proponendo una nuova legge fondamentale per l'Unione Europea. Il testo è essenzialmente una riscrittura completa del trattato europeo. Pochi cambiamenti, ma talmente profondi da riformare la UE, perché l'alternativa, spiega il gruppo Spinelli, sarebbe una sola: tornare indietro, e cioè la fine dell'Europa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Irricevibile il ricorso degli Inuit contro il divieto di commerciare prodotti derivati dalla foca nell'Unione Europea. La Corte di Giustizia ha confermato l'ordinanza del Tribunale, che aveva già dichiarato irricevibile il ricorso. E prenderà il via domani il Trans Europa Festival, evento internazionale per l'arte, la cultura e la politica in 13 paesi. Ci saremo anche noi di Radio 24 a Ferrara con l'altra Europa. Con Europa 24 ci ritroviamo invece lunedì sempre alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.